gli acuti, oppure ti esalta i bassi, non è una cosa lineare, sono proprio circuiti ridicoli. Per quello che dico, molte volte quando facciamo le regolate le guardo qua con un esattore di spettro e vedo, dico, ma come cazzo sta uscendo? Dico, ti dico a sollevare gli acuti e mi stai mettendo i bassi, proprio non ha logica di funzionamento. Poi c'è il discorso della larghezza di banda dell'apparato, che è molto limitato ed è uno schifo. Molte volte vedi dei bellissimi microfoni di qualità attaccati a certi apparati che fanno schifo, che li senti, ti vado a c'è dentro un bidone della Mondè. E guarda, già mi ha fatto qualche modifica al microfono ultimamente e ha avuto anche successo. Cosa hai ricombinato al microfono già? L'ho cambiato, vabbè, è stato sostituito tutto quanto il cavo, l'ho cambiato anche la capsula, diciamo, e adesso va di lusso. Capito, vabbè, mentre tu stai lì a cercare di fino, così come volevo il pasticciare io, con un equalizzatore, un compressore, pensare di renderlo lineare, se lo guardi con lo giroscopio e ti limiti di qua, Gianni prende cambia una capsula e magari ha molto più successo di tutta la tecnologia che magari io e te ci mettiamo insieme a inventare la live, capito? Sì, sì, ma l'altro giorno c'era Claudio, per fare un esempio, aveva un Tanner più 2, che aveva un'impedenza troppo alta rispetto all'abbinamento dell'apparecchio. Lui era così, allora, cioè, si sentiva addirittura un rumore tipo cristallo, cioè quando uno parla dentro un bicchiere, delle, proprio di rumore di smattendo del vetro. E lui diceva, ma io sembra adesso uscire, ma non è così, eravamo con Giulio, ho detto qua, se vuoi adattare l'impedenza, se la vuoi abbassare, gli metti una resistenza in parallelo, fai delle prove, e un pochettino si è riusciti a abbassarla. Molte volte basta toccare l'impedenza e vedi, è cambiato totalmente il suono, ha eliminato tutti i difetti, non era eccellente, diciamo, la modulazione, però ha cambiato tanto, ma magari basta toccare una fesseria e vedi come cambia. Noi magari siamo abituati a utilizzare altri tipi di cose, di microfoni per la voce o per registrazioni eccetera eccetera, e tu dici, ma è possibile che qua non c'è una logica normale come può essere quella di quello, magari mette la capsula del telefono come fece io un M93 che mi ha dato Luca tanti anni fa, lui l'ha modificato, suonava con l'altro, gli ha messo una capsula di un telefono rispetto all'M93 originale e ha cambiato totalmente. Sì, capo, tra l'altro mi stavo ascoltando quello che... Scusate, stavate facendo quelle prove con Claudio. La prima cosa che avrei voluto dire, io ero con il ricevitore, facevo con lo scannerino nella WPH, non potevo entrare. La prima cosa che avrei voluto dire era proprio quella, mettiti un trimmer, un potenziometro, ti devo dare in parallelo e proprio un attimino, visto che questa possibilità qualcuno che ti dà i risultati, proprio un attimino a variare l'impedenza. Una volta che togli il trimmer e te lo misuri, sai il carico resistivo che ti dai, un attimino di resistenza, li devi tutti lì e a posto. Però voi avete proseguito con il discorso, cioè siete arrivati dopo mezz'ora a questo ragionamento, e io mi sono troppo a ridere, non puoi capire. Sì, naturalmente io ti ho preso all'inizio, ho detto non toccare nulla, ho detto non fare niente, tienitelo così perché con l'apparato. Poi c'è il discorso nel fatto dell'impedenza, c'è la possibilità di mettere la resistenza in parallelo, addirittura ho detto anche io di mettere una resistenza variabile, un trimerino, a causa ho detto non ne aveva un pugno di resistenza, ho detto proviamo quella, proviamo l'altra, ho detto se vuoi ti posso fare il calcolo matematico, ti dico di quanto è, però cacchio mica ce l'hai poi con la resistenza, allora devi fare delle sottrazioni, delle somme, collegamenti in serie in parallelo, arrivare a quel valore lì, ho detto prova. Quella che esce alla fine è quella di 100 ohm, era quella che si adattava meglio, che ha dato il valore diciamo più definito, nel senso gli ha dato un maggiore vantaggio di qualità, niente di particolare, però si è riusciti un po' a renderlo un pochettino meno disturbata la modulazione. Ok, io infatti questo discorso di questa specie di scatoletta che le ho messo, questo contenitore con questo circuitino eccetera, l'ho fatto più che altro per utilizzare i microfoni, io ho dei microfoni di qualità da voi, da registrazione eccetera, e provare a fare delle prove, l'avevo fatto tanti anni fa, voglio riprovare secondo il suo tempo, fammi due risate, dai, vedere un pochettino. Vabbè, così tutta, calcola che l'MT100 è nato apposta per essere collegati a baracchini Intec, io vi ricordo che il mio piatto ideale, quello più bello che vedevo al tempo era avere un Galaxy, una stazione Galaxy con l'MT100 collegata. Dunque, che ci siamo sbagliati, in qualche foto ho anche visto, in qualche giornale, in un foto del genere, e doveva essere l'impiantino a posto, cioè quello nato apposta il microfonato simpatico, no? Bellino, la stazione. Ecco, io l'M600 l'ho usato nel campo Hi-Fi, ciò vuol dire che lui potenzialmente è più nei bassi e più negli acuti, non fischia, non ronza, cioè è un microfono che si comporta bene. Io ricordo che ho fatto delle registrazioni di voce che erano curiose, ricordo la chitarra di un amico Maurizio, un'acustica, che ne è venuta fuori benissimo, cioè alcuni particolari di ambientali nel traffico con degli acuti anche interessanti, la frenata di un filobus a Roma per esempio l'ho registrato ed era veramente severo. E tutta questa fedeltà poi va a finire in quell'imbuto del trasformatore, del modulatore, cioè il gioco è solo l'interenza, perché poi alla fine puoi tirare, puoi mollare, i microfoni fedeli ci sono, però la modulazione viene fuori molto. Ciao Robe. Gianni sono, col microfono con l'MVP5 che ho modificato, guarda come va. Ah, Gianni, ciao Roberto, non c'eri anche prima, ho detto, no, già ti ascolto bene. Com'è la modulazione? Guardamela. Ho la 1, 2, 3, prova. No, è chiara, naturale, non posso dire niente, non ti posso, vabbè, se vuoi ti dico se è abbastanza amplificata o se puoi sollevare, però ti ascolto bene, la tua voce, diciamo, direi massima, è una voce molto simile alla tua naturale. È interessante quello, che si assomigli. Dai, questo qui l'ho abbinato al 3009. No, ti ascolto bene, naturale, non sarà da combattimento, però la voce è riposante, dai, non è fastidiosa, molto naturale, per me va bene. Non la senti amplificata? Io adesso, Fabio, mi dovrò buscare un M60, un altro, per fare delle operazioni che mi ha consigliato un amico. Io ho un microfono di quelli, non so se lo conosci, quello RCF professionale, che c'ha una base in alluminio grossa con la testa smontabile avvitata, che è molto simile a quella dell'MC60, però è più grande, appena più grande, però molto simile, e veramente utilizza questo qua con questi componenti, fa questa modifica qua e vedi che cambia dal giorno alla notte la qualità dell'MC60. K, è un microfono piano, molto benissimo, il classico RCF, ne avrò montato decina penso. Sì, ce ne sono tanti in giro, l'MD2502, lo trovi facilmente, diciamo, che c'ha l'interruttore di accensione, proprio c'ha un interruttorino a salire e a scendere, non ha PTT, quello lo commutavi con l'accensione, con il classico interruttore nero, una bella base pesante in alluminio, usavano molte, anche nelle chiese lo usavano quei microfoni. Robert, io ti consiglio di fare un circuitino con voi. Oggi su un forum ho visto il Galaxy con le MC60 attaccate in vendita. Aspetta, forse avete parlato in due, chi è che stava a fischiare? No, scusa, cosa hai detto Fabio? Ho sentito sovramodulazione, non ho capito bene. Diciamo che ti consiglio di fare un circuitino con un relè, in maniera tale da preservare l'esterica del microfono, se lo lasci quello originale, poi come sposti questa fine non ti va importante, capito? Sì, ma ti dico, c'ha di buono, non so se l'hai visto, la testa del microfono la stacchi proprio ed è avvitato, c'ha il connettore a tre poli, chiaramente diciamo non sono innesti professionali per cambiare direttamente, questo è un cardioide mi sembra, aspetta cos'è, un professional dynamic cardioide, sì, un microfono del coso, quello lì faccio un MC60, ne stacco la testa sua e la metto direttamente senza modificare niente. Capa, metto il gestino, vediamo come esce. Pensa tu che c'è chi ha cambiato completamente la modulazione dalla notte al giorno mettendo la cazzola del citofono, bel riferimento, no? O gli vuoi fare direttamente, cioè, ma vuoi utilizzare anche l'elettronica dell'MC60? No, trovare un circuito magari più evoluto. Ti presenta l'impedenza di questo è 200 ohm, molto ma molto più bassa di quella diciamo d'uso del 60. Ecco, adesso ti cerco una cosa e ti metto una pulce nell'orecchio, se trovo, perché io gioco un po' con gli operazionali ogni tanto, no? Mi ero messo da parte un appunto per un operazionale che potrebbe essere interessante per verificare proprio sull'apparato, non mi ricordo la sigla, forse l'M238, aspetta che te lo cerco. Sì, ok, già ne ripreso. Aspetta che mi voglio ascoltare, che non mi ha fatto... tutti che è molto amplificato e tu mi stai dicendo che non è amplificato questo microfono. No, non ho detto così, ho detto non so se sia amplificato, se puoi salire adesso, prova a parlare, te lo dico, ho acceso l'indicatore e mi dici, è proprio a parlare. Eia, come tu, come mi ascolti Fabio? No, no, va benissimo, l'amplificatore è molto forte. Già, scusi, sei perfetto qua, proprio passato perfetto. Quando ho trovato un video, Roberto, che parla del mio operazionalino, si chiama LM358, è facilissimo da controversionare ed è un applicatore curioso. Aspetta, me lo sto scrivendo, LM358. Sì, tra l'altro, guarda, questo addirittura fa vedere lo schema su YouTube, preamplificatore microfonico con operazionale LM358. Se lo senti così lo trovi subito, ti fa anche il circuitino. Quando sono 5 minuti me lo guardo. No, io quello che avevo usato di circuitino, avevo preso la GBC, forse Futura Elettronica mi sembra, che vende questi kit di coso, l'avevo montato e l'avevo utilizzato per quella roba lì. Dovevi fare delle regolazioni, perché dovevi fare delle regolazioni di impedenza di coso, e sono riuscito a farle uscire in quella scatoletta, ce l'ho ancora, avevo fatto l'uscita diretta, perché potevo utilizzarlo direttamente, attaccarlo al baracchino con il 4 poli, diciamo, e poi il jack, attaccavo il microfono col jack, oppure c'avevo l'uscita RCA che mi collegavo al mixer e di lì potevo utilizzare i equalizzatori e tutto quello che guadagno, miglioramento di guadagno eccetera. E capa, questo non sto guardando in questo momento il video, il circuitino più o meno come glielo faccio io intorno quando devo fare qualcosina sulla dovuto per le chitarre, perché è inutile, i professionisti, quelli fissati per quanto riguarda la chitarra, sì, hanno le pedaliere con gli stessi, però vogliono il loro effetto, hanno la loro idea e ogni tanto qualcuno di questi mi aggancia e mi fa un po' uscire di testa. E tra i vari circuitini che ho fatto, che ho provato, questo con LM358 io l'ho trovato molto utile, anche perché il circuitino rimaneva lo stesso, gli cambiavo due valori di due condensatori di una resistenza e gli facevo l'effetto che voleva. Ma come distorsore tu lo utilizzavi o come qualità? No, questo è preamplificazione, poi per distorcere tu hai la possibilità di variare i due valori per cambiare l'impedenza anche tra un operazionale e l'altro, no? E perciò puoi entrare più chiaro, più forte o più basso su un altro effetto, su un preamplificatore con il distorsore, capisci? Sì, ok. Ok, vediamo Gianni se c'è ancora. Gianni? Stavo cambiando apparato, non vi ho potuto rispondere per quello. Ma quanto ne hai già cambiato in 10 minuti già da? No, due, sono cambiato dal 2009 al Galaxy, dal Galaxy al 2009. Questo cosa è? Indovina. Che bozza, è il Galaxy. Sì, è il Galaxy. Perché, come si chiama, questo amplifica, prova a parlare un po'. 1, 2, 3, prova. No, sembrava che fosse più amplificato dell'altro, invece era più amplificato l'altro. Ma devi ricordare, Robè, che praticamente l'apparato è lo stesso, il modulatore è lo stesso. Al 2009 con il Saturn X. Scappa, la scheda del PT6. Il PT6 poi, vabbè, qualche valore magari sarà cambiato, ma l'imbuto è quello per intenderci. Però stanno utilizzando due microfoni diversi, o sbaglio già? Sì, due microfoni, uno è l'MV25 e l'altro è saletta. Questo è saletta? Ti posso garantire, Saturn Echo mi piace come modulazione, niente da dire, però mi piace più l'altra. L'altra è più naturale, questa è più da combattimento, la vedo, perché quella è meno distorta come modulazione e sembrava più alta questa come intensità, invece è più alta l'altra. Sto guardando qua, almeno 4 dB più forte l'altra. Capagà, va bene, sono contento di essere riuscito a fare un microfono come volevo. Vabbè, è cambiato la KP, tutto quanto, gli ho messo il cavo quello spiralato morbido che lo posso tirare da tutte le parti, perché io ti faccio presente che tiro il piano del computer, lo porto fuori e ci metto il microfono sopra, perché se no non ci sta, capito? E quindi ho bisogno di un cavo che si allunghi. Ma su una domanda, stai parlando alla stessa distanza dell'altro, tu, tutte le stesse, come si chiama, distanze, o ti stai muovendo, ti stai spostando? No, l'altro ce l'avevo più vicino, guarda, adesso sto parlando più o meno alla distanza dell'altro, un braccio. Ma diciamo questo è leggermente, ma proprio a livello strumentale, più basso, ma di poco, l'altro leggermente spinge un pochettino di più. Questa sembra però una radio un pochettino meno naturale, bella, niente da dire, ti ripeto, chiara, super 5, però l'altra era più fedele alla tua voce naturale. Ok, riprendi e fa. Ma comunque si vede la radio già, il segnale cosa effettivo che mi arriva sull'apparato con il quale stiamo usando in questo momento non è molto alto, ci sono dei rumori sotto, ma sono dovuti al fatto che non ti sto ricevendo con un segnale altissimo, ma la radio è sempre chiara e forte, perché spesso ho dei segnali più alti, ma come modulazione non ci siamo. Per cui già non tocca nulla, ti tieni questo e l'altro e buh, lascia stare, non tocca niente. L'altro giorno quando c'era quella discussione eravamo riferiti al confronto con un altro apparato, con un altro tipo di regolazione, cioè lo stesso apparato però con altre regolazioni, e c'era un abisso, però con lo stesso apparato originale senza essere toccato andavi meglio tu. E adesso quello che sta andando bene, la radio ti ascolto bella, chiara e forte, l'altra è un po' più cupa, la classica radio salottiera, l'altra, questa spinge un po' di più e non distorce soprattutto, perché è inutile che spingi e poi fa distorsione eccetera. Finalmente le paranoie sono finite. No, vabbè, io ti sto dando il mio parere qua, io ti sto guardando qua, non ti sto solo ascoltando, perché qualcuno, molte volte ho sentito anche dei commenti di qualcuno, che non facciamo nome, di cosiddetti sapientoni, cosa stai ascoltando, tu con cosa ascolti, con un baracchino, e la gente dice, se vuoi ti seppellisco di attrezzature e di macchinari, non ascoltato, né con un baracchino e tantomeno con altoparlante di baracchino, ci avevamo qualcosa di diverso, sia come strumenti e come diffusore di ascolto, perché molte volte mi sento dei commenti un po' ridicoli, guarda stai ascoltando, tu con cosa sei, con un baracchino, no, io non sto ascoltando né con un baracchino né con l'altoparlante del baracchino e sto ascoltando, e poi in più sto vedendo i segnali, oltre che ascoltando. Allora, ti puoi immaginare, Robè, che io praticamente li ascolto con un Kenwood RZ1 utilizzando il suo amplificatore, ma come speaker sto utilizzando una cassa hi-fi da 8 ohm, un monovia con 93 decibel di sensibilità. Faccio un po' di conti, la uso col valvolare di solito. Hai detto tutto, di cui puoi dare almeno a livello di ascolto puoi dire la tua, però oltre a quello io ho degli strumenti, c'ho un analizzatore di spettro collegato all'apparato, all'analizzatore di spettro audio stiamo parlando, e un indicatore di livello tarato in decibel, che io ti posso dire di quanti decibel c'ha la modulazione lui adesso, a quanti decibel arriva, e più c'è un analizzatore di spettro che mi dice le tonalità, le frequenze, molte volte ci sono dei disturbi, a quanti Hz è quel disturbo, l'altro giorno c'era uno a 500 Hz, c'era un disturbo, gli ho detto non parlare, si sentiva un ronzio a 500 Hz, e gli ho detto c'è questo problema qua, mettiti un filtro su quella frequenza lì e elimini il disturbo. Quando parliamo di cose serie, poi qualcuno si offende, perché molte volte posso essere anche antipatico quando ti dico no, non mi piace, è capitato più di una volta. Se tu vuoi un parere mio, io ti posso dare un parere preciso, non a rareci come fa qualcuno. Certo, l'orecchio conta più di tutti, però cacchio, se io ti dico che sei troppo basso, devi sollevare un pochettino, poi solleviti, però guarda che stai distorcendo, ti stai modificando la modulazione, perché sono molte volte attacchi lineare e ti cambia completamente la modulazione, ti dico no, ti stai abbassando di radio, oppure ti sei alzato di radio, però hai cambiato la modulazione, ci sono troppi acuti, troppi bassi o viceversa. Io quando lo dico lo guardo pure, oltre che ascoltare. Sì, ma infatti, il discorso è che sì, la radio è un parere, no? La radio la si impara sul campo, Riccardino ha imparato a dire la radio, eh? Secondo me è il commento più difficile, quando dici Radio 3 non dici niente, chiamala così. Però è anche vero che, insomma, non tutti abbiamo lo stesso orecchio, non tutti abbiamo le stesse condizioni d'ascolto, e è anche vero che puoi arrivare con una diversa, perché in una posizione diversa, con un rapporto di segnale diverso, la radio può apparire un po' diversa, ma in linea di massima i commenti possono differire di poco, capito? Sì, se ci ascoltiamo con le dovute attrezzature, quello sono d'accordo, ma quando tu mi ascolti con un Alan 48 col suo altopalantino incastrato dentro una scrivania, una cosa del genere, questo sì, sta uscendo bene, ma come fai tu a giudicare se c'è un altopalantino di 6 cm quando sono 6, perché normalmente sono anche meno, come fai tu a giudicare una modulazione che è tutto pieno di frequenze medie e non ha né alti né bassi, non c'è niente quello lì, perché è un altopalantino molto limitato come risposta in frequenza. Io cerco di ascoltare con altoparlanti di qualità che ti permettano di avere una discreta risposta limitatamente alla frequenza, alla larghezza di banda di questo affare, però ti guardo allo stesso tempo e mi guardo io il coso, lo spettro, e ti dico no, guarda che qua stai andando male. Molte volte quando si fanno le regolazioni uno le fa orecchio, poi non riesce a memorizzare bene, così io dico no, solleva gli acuti, e poi mi rendo conto quando solleva gli acuti invece sta abbassando i bassi, o viceversa, sta abbassando i bassi e sembra che stia sollevando gli acuti e sta attenuando altre frequenze. Per quello te lo sto dicendo, lo saprai, non c'è bisogno di dirtelo, però quando le dico, siccome sono un grande appassionato, oltre che di telecomunicazioni, di audio, diciamo, di ascolto, di apparecchiature audio, da sempre, da quando sono nato, molte volte io dico quello, soprattutto ai giovani, una cosa è ascoltare il suono, la musica, una cosa è ascoltare il rumore, sono due cose diverse. Infatti ascolto il suono, che ha c'ho impianti Hertz. 9 su 10 in questo momento storico ascoltano da una fonte digitale, e normalmente da quella fonte digitale la base è una compressione di campionatura di una traccia MP3, cioè negli ultimi anni non abbiamo fatto altro che peggiorare sul modo di sentire l'audio, sul modo di sentire anche la voce riprodotta. Una voce che esce da un MP3 non sarà mai una voce fedele per nulla, capito? Però se tu parli con un ragazzo di oggi e gli dici beh, ascolta, ma fonte analogica ne hai, cosa vuol dire? Ma tu come ascolti la musica? Ovviamente da YouTube, ti ho detto tutto. Guarda, io ti faccio un esempio, che, diciamo, proprio per tirare togliere la cosa, ma è proprio specificatamente sull'argomento che hai tolto tu. Allora, la moglie di Fabrizio De André, Dorighetti, penso che il marito lo conosca e conosca anche la voce, tutte le registrazioni che ha fatto De André non sono assolutamente reali, perché sono tutte manipolate. Io ho acquistato, anzi me l'hanno regalato, una raccolta, sono 3 CD con tutti i maggiori successi da 68 in poi di coso di De André. Ti faccio sentire le registrazioni fatte senza filtri, senza manipolazione. La moglie l'ha voluto così, infatti in questa raccolta c'è scritto: questa registrazione sono state fatte senza filtri in modo da avere la massima naturalezza della voce di mio marito, in questo caso Fabrizio De André. Se tu ascolti la registrazione di queste registrazioni che ti dico io e le confronti con le altre registrazioni, la stessa canzone con le stesse strumentazioni eccetera eccetera, però senza tutti quei filtri, compressioni, espansori eccetera eccetera, tu sembra un'altra voce. E la moglie ha detto: questa è la voce di mio marito. Per farti un esempio, strumenti, poi non parliamo di strumenti, ormai è tutto digitalizzato, i piani non esistono più, le batterie non esistono più, è tutta una roba digitale, e trovare registrazioni di qualità è sempre più difficile. Guarda, io dove cercare, ma lo troverò. Avevo rifatto delle canzoni dance fine anni 80, anzi forse erano di metà anni 80, le avevo rifatte ricampionando i suoni dalle canzoni con un Commodore, con un'Amiga, mi ricordo proprio con l'Amiga, che montava dischetti piccoli, perciò era una cosa proprio avveniristica. Avevo riprodotto tutti gli strumenti di quelle canzoni con un campionatore dell'Amiga, cioè usando l'Amiga come campionatore. Pensa un po' che ti sto parlando di tanti anni fa, immagina come adesso, cioè non suona più niente, non c'è più una corda, non c'è più un piatto, e purtroppo spesso non c'è neanche la voce, Luca. Sì, certo, tu, ma la voce, non parliamo della voce, non parliamo della voce perché ormai, cacchio, anche quando sono muti riescono a fare le canzoni, dice ogni tanto ne esce una canzone di Freddie Mercury, ogni cosa, tutta roba manipolata, come si chiama, campionata, eccetera, lasciamo dire. Io mi compro molte volte dei CD, non tantissimi, qualcuno l'ho comprato solo per avere la qualità, magari non mi piace il gruppo musicale, l'ho comprato uno qualche anno fa, però sapevo la qualità di registrazione di questa roba qua, il basso quanto scendeva, l'ho comprato apposta per sentire la qualità del suono. Molta gente neanche se ne accorge, perché tu li metti una registrazione fatta come hai detto tu, MP3 da YouTube, e dici cazzo quanto si sente bene. Oggi è venuto uno in officina, un amico, ed è venuto a sapere che io sono appassionato di musica, mi hanno detto che tu qua l'ha fatto, sì, diciamo, nel mio piccolo mi arra, e anche io ho un impianto, e ho fatto cosa, con cosa ascolti tu? Io ho la perla nera, lo sai cosa è la perla nera? La perla nera è Kenwood, era un barattolo che ha fatto a Kenwood, cioè, mio Dio che cos'era. Ma questo convinto che stesse parlando di chissà che, ho detto, ma di cosa stiamo parlando? Ho detto, vieni, quando capita ti farà, ha fatto un po' di discorsi di cose, ho detto, tu tieni presente, di casse autocostruite tra l'altro, ne ho diverse di casse, però quelle più performanti, quelle più sensibili, di un progetto, diciamo il case di ricerche professionali, sono stati cambiati i componenti, rifatti i filtri e tutto quanto, gli accordi e tutto, buffer da 38, tutta la compressione. Detto, un giorno ti faccio salire a casa senza potenza, ho detto bastano pochi watt e te ne butto in terra la casa. Io ascolto rock normalmente, avevo dato le Infinity, casse eccezionali, però le ho date perché per il tipo di musica che ascoltavo io non avevano la stessa resa, venivano schiacciate da queste, e più ho preso queste svedesi, hanno 1,30 m di casse con woofer, due woofer da 32, c'hanno, sono belle casse, 96 dB di sensibilità, però anche quelli lì scompaiono con questo, con questi cassoni grandi di suo progetto. Non sono ancora il suono che voglio io, perché io sono molto molto molto coso, infatti dobbiamo fare delle operazioni con l'oscilloscopio, io potrei correggere, io ho il generatore rumore rosa, analizzato di spettro e tutto, però lo voglio fare fisicamente le operazioni, infatti si deve fare con una persona molto più addentrata di me, con l'oscilloscopio dobbiamo fare delle prove di cose, perché non sono ancora soddisfatto, però chiunque viene a casa mia rimane a bocca aperta, dico questa è musica, e poi ci ho entrato per divertirmi, dove ho altre cose, ho delle classiche classi che da 30, buffer da 32, sono vecchi anni 80, anni 90 della Pioneer, però di lì dove ascolto musica discoteca, ho il mix, il 1200 eccetera, c'ho due impianti, e poi c'è uno dove mi siedo, mi rilasso, dove voglio ascoltare la musica, però se voglio far rumore c'ho quelle casse lì, e l'amplificatore è un top, non posso dire niente, l'amplificatore è un signor amplificatore, è un vecchio Marantz, quelli degli anni 70, il top di gamma è una pizza, l'amplificatore, però dove ascolto, ascolto con altre cose, se voglio ascoltare musica, e poi c'ho quelli, quelle serie, quelli classetti, non so se li conosci, quei giocattolini che hanno dei suoni spaventosi, 5 watt di potenza, ma sono da paura. Allora, sicuramente l'amplificatore è vecchio Marantz della serie PM, cos'hai? PM550? Adesso non mi ricordo a memoria, ma penso che sia prima, quelli con le cose azzurre, con gli strumenti azzurri, è una bestia, ha preso 20 kg, è un amplificatore da paura. È la serie PM, io dovrei avere, ho anche fatto il 350, che ho cercato di ricappare e di rifare i semiconduttori, però mi è sfuggito qualcosa, quello l'avevo abbandonato, anche perché non lavorone, cioè cambiare 240 componenti in una scheda, roba. Sì, ciao Riccardo. Allora, con l'amplificatore, ti hai preso l'amplificatore quadrifonico, funziona in quadrifonia e in stereofonia, c'è il commutatore dietro, c'è attacchi per mettere schede aggiuntive, è una bizza. Non so chi l'abbia progettato perché non è un giocattolo, è di lì metterci mano, però tutti i componenti che ci sono di lì sono di altissima qualità, il potenziometro mi ha dato problemi, c'è i doppi controlli di tono per ogni canale, alti, bassi e medi, doppi, il potenziometro del volume, c'è tutto, non rimane niente. E doppi doppi, tutti gli ingressi ce l'ha sdoppiati, tutti i doppi ingressi fono ce l'ha sdoppiati, e puoi attaccare quattro piastre, puoi attaccare quattro aux, cioè una cosa allucinante con l'amplificatore. Ed era, io siccome non sono, adesso non ci vediamo più, di Paolotto, non so se ti ricordi, Paolotto era il dimostrativo, questo era l'amplificatore dimostrativo, il top di gamma della Marantz degli anni dopo. Sopra di questo c'era solo il finale, sopra di questo amplificatore, ma pesa 20 kg, stiamo parlando di un giocattolino, se va a costruirlo adesso costerebbe migliaia di euro. KK, l'hai trovato di cabina? Sì, conosco, come ho avuto in mano, ho spolverato e sinceramente piccole riparazioni, piccoli ritocchi, tipo ricordo uno che ha avuto in mano, aveva una sorta di fibilino su un canale solo in certi momenti, e il proprietario si era abituato che quando lo faceva gli dava un colpettino di lato sul lato destro e spariva il fibilino per 20 giorni, poi ritornava, un piccolo passo contro sulle mani, poi era la fine. E la mia idea di cosa ho fatto ultimamente, che tu mi parli degli amplificatori classe T, ho preso un 2055, 2055 era, non mi ricordo, ce l'ho qui dietro comunque, ben cablato, tripass, l'ho inserito dentro un Akai e gli ho fatto un pre-svapolare, così, per un cliente. Perché questi piccolini, già lo sai come li abbiamo chiamati, gli ammazza giganti, e secondo me hanno tutta la ragione di essere veramente ammazza giganti. Non c'è valvola che tenga fino a un certo livello. Allora, tieni presente, quello che c'è io l'ho fatto arrivare dagli Stati Uniti, uno dei primissimi, la prima versione del Tripa. Come hai detto tu, la massa gigante, se ti guardi le recensioni hanno fatto prove, il piccolo c'ha 5 watt, l'altro ne ha un po' di più, e poi c'ho quello più grosso che ne ha 30 watt. Però il top è il piccolino, quello degli Stati Uniti, il secondo, anzi l'ultimo che l'ho fatto arrivare l'ho fatto... E poi ho scoperto che uno dei più grandi musicisti del mondo, ci siamo sentiti, adesso non mi ricordo neanche il nome, il cognome, comunque se mi viene in mente ve lo dico, questo è un più grande, uno dei tre violoncellisti, come si chiama, violinisti del mondo, che ha suonato a New York, alla cattedrale, non so che cosa, e ha suonato con uno Stradivari che nessuno al mondo aveva mai suonato, è uno di quei tre che è riuscito a suonare, per dire di chi stiamo parlando, non mi ricordo però il cognome di questa persona, l'ho conosciuto personalmente, e quando mi ha iniziato a parlare ha detto ma cosa fai, ti occupi di musica? Lui ha detto sì dai, mi arrangio, prova a cercarmi su internet, cacchio sono entrato su internet, e chi cacchio è? Vedi Puccini, è un musicista a livello mondiale questo qua, e me l'ha venduto lui questo apparecchio, ti posso garantire, io la prima volta che ho sentito quello piccolo, quello che funziona anche a batterie, sono rimasto sbalordito, perché avevo detto solo le recensioni, ho detto ma le solite fesserie, quando ho ascoltato quello piccolino con le casse Infinity, mi sono girato ad un certo momento, sembrava ci fosse gente nella casa, una dimensione, una spazialità mai sentita, mi ho risentito tutte le musiche che erano anni che non sentivo, dico ma cacchio, io non avevo mai ascoltato a quei livelli lì, una cosa da paura, un suono mai sentito. Breaker da bracco. Un attimo, c'è Fabio Giovasso, aspetta che facciamo riprendere a Riccardina, avanti Riccardina. No, volevo chiedere, ma comunque io sono un violinista, comunque ho diversi violini, faccio musica, e ti volevo chiedere per caso, vabbè il violinista non sarà lui, però ti volevo chiedere forse non era un tu, perché ne conosco diversi violinisti famosi, come ha detto sul violino. Non è un altro, è questo qua, è quello che stai dicendo tu, non ha suonato a New York, anche se a livello mondiale, questo qua si chiama, cacchio non mi viene il nome, mi sembra si chiama Andrea, sto parlando di diversi anni fa, ci siamo sentiti per telefono, abbiamo fatto delle belle chiacchierate, e mi ha dato delle belle informazioni, è uno dei pochissimi al mondo che ha suonato al coso dove c'è in Russia, a San Pietroburgo, non so dove cacchio, cosa c'è di lì, una cosa di non so che cosa, di musicisti a livello mondiale, e poi ha suonato lo Stradivari, che lo Stradivari sono strumenti che costano milioni e milioni di euro, guai a toccarli, li fanno suonare solo ai più bravi, però non mi ricordo il nome, dovrei cercarlo su internet, perché abbiamo anche l'amicizia con questo signore qua, è abbastanza giovane, non è anziano, è uno dei mostri nascenti del violino, non mi viene in mente il nome, perché l'ho letto anche l'altro giorno, però non mi ricordo il corso. Quando mi viene già te lo dico, visto che tu sei appassionato di violino, io non ne capisco niente, di musica solo ascolto, però strumenti, forse il campanello devo stare anche attento a saperlo suonare, perché sennò rimane incastrato. No, sto scherzando, naturalmente proprio zero. Mi sarebbe piaciuto a me, cioè, per suonare strumenti, però non lo so. Ci vuole pazienza, io ne ho ben poca. Avanti Giovanni. Sono entrato appunto per salutarvi. Ciao Fabio, ci siamo visti stamane con Fabio. Ciao Riccardino, ciao Roberto, non so se c'è qualche altro. Comunque mi fa piacere sentirvi, rimango in ascolto, perché diciamo che ho attivato anche il 144, quindi c'è una discussione anche con loro, e quindi insomma, rimango in ascolto, eventualmente voglio rientrare già faccio break. Ok, vai Fabio per Giovanni. Capagione, ti saluto, ben risentito. Mi ha fatto molto piacere conoscerti verticale stamattina. Ti rifaccio i complimenti, perché sei veramente una persona particolare, veramente un artista. Verità, non è che stiamo dimenticando di qualcuno, proprio Rum. Ma guardimi, stavo aspettando, non ho prontonato perché ho detto sono presi dal discorso. Volevo dire la mia, ma non fa niente, dai. Riguardo alla musica, io ho la passione lo stesso della musica sentita bene. In tutte le macchine ho avuto sempre belli impianti, amplificatori Alpine, casse Hertz, eccetera eccetera, ho avuto sempre degli impianti molto costosi, e adesso in questa macchina qui non ho messo nulla, perché si sente già bene la musica, dico la verità, è bella pulita, si sente bene, quindi non ne vale la pena spendere soldi. Che macchina è? La mia era tipo. La tipo, non capito. Vabbè, ci sono gli impianti, è che in Dash viene male fare modifiche. Io per esempio ho una B88K e mi ritrovo le funzioni di manutenzione della macchina, i pezzi fissati, le luci esterne, tutte quelle questioni là mi ritrovo nel menu dell'autoradio. E perciò fare modifiche viene anche un po' peggio. La tipo. Non ho mai finito a suonare, sono anche curioso se mi dici così. Gianni. Eia. Tipo quale? La mia è la tipo 1004 turbo 120 cavalli. No, in realtà l'ho visto che non era tipo quale. No, già ho capito qual è la fiamma. Dille nuova tipo, come già. La base della tipo. Questa qua è la scheggia. Comunque saluto a Giovanni, ciao Giovanni. Ciao Giovanni, anche io ti saluto. Però tornando alle macchine, già il problema delle macchine è limitazione di ingombri, di radiazioni eccetera eccetera, pochi io ne ho sentito di impianti che si può dire avvicinabili all'ascolto domestico, forse due in vita mia. Poi ci sono quelli da gara, diciamo, li riguardano altre cose, non guardano tanto la qualità, si guarda altre cose. Io ho ascoltato tantissimi anni fa, ma parlo non meno di 20 anni, forse anche di più, 25 anni fa, un impianto su Mercedes e valvolare, con delle casse della Marantz dietro, l'autoradio della Marantz, valvolare, uno dei migliori impianti che abbia ascoltato, stiamo parlando degli anni, fine anni 80, e poi di recente ho ascoltato un impianto Macintosh originale, montato come Oxia su un BMW di un certo livello, diciamo quello poteva suonare discretamente. Europeo. Sì, dimmi Riccardo. Comunque noi non abbiamo un impianto così, l'unico impianto buono che abbiamo è in quello rosso, nel Dodge, che è un Alpine con delle buone casse. Invece volevo chiedere, non mi hai detto niente, io perché non so, mi sono sembrato, non mi hai detto niente, attenzione, della Caprice, della Chevrolet che è venuta oggi, della Station Wagon. Bellissima, l'avevo già vista, diciamo, la vedo quasi tutti i giorni quando la uso a tuo babbo, perché io passo sempre davanti dove lavora tuo padre, quando vado la mattina a prendere il pane, a rientro passo davanti al posto di lavoro di tuo padre, per cui so se c'è o se non è ancora avvenuto, perché oggi non c'era, infatti dopo, forse oggi non sta lavorando, perché lui arriva prima dalle 8, lo vedo sempre, tutti i giorni, bellissima macchina, enorme, le classiche manecchine americane, no? Posso dire niente, dai. Ok, ritornando a lui, il discorso della macchina, Gianni, sono sempre dei compromessi di impianti di macchine, a meno che non fai dei lavori particolari di cosa, di dimensioni, di come si chiama, di come ti dirlo, dai, mi viene un po' male il discorso di calcolo di volumi eccetera eccetera, di sensibilità di altoparlanti, di fronti sonori eccetera eccetera, sono cose troppo complicate e alla fine poi dice ma cosa lo fai? Infatti io nell'altra macchina che avevo qualcosa avevo fatto, però poi alla fine dice ma gatti, non potete fare, sto ascoltando con un autoradio semplice, so che gli ho messo con la multipla gli altoparlanti, li ho sostituiti, li ho messo delle lettere, molte volte mi viene la voglia di fare qualcosa di meglio, ma poi dico ma che cacchio me ne frega di ascoltare, se vuoi ascoltare ascolto a casa, perché poi tanto le sorgenti, le radio ormai sono quelle che sono, devi mettere, adesso c'è il DAB eccetera eccetera, un pochettino meglio, qualcosa di meglio, però sempre qualitativa, la qualità sonora è sempre scadente. Ci dice del DAB, io l'ho ascoltato tante volte, ti posso dire già la sorgente è scaccina, poi tutto quello che c'è detto non ne parliamo, perché quando fai degli altoparlanti devi mettere in casse calcolate, ci sono fattori da rispettare, per cui sono sempre dei compromessi. La vera tonalità non si può mai ascoltare in macchina, oppure se la devi ascoltare devi ricostruire tutto dentro, dai pannelli ai sedili, i materiali assorbenti, fono assorbenti eccetera eccetera, per cui ci sono sempre dei compromessi. Vabbè, a me me le ha fatte sempre pudiche gli impianti in macchina ed è il numero uno facendo queste cose, che fa le gare, praticamente prepara le macchine per fare le gare, non ti dico altro. E nell'altra Station Wagon c'avevo un impianto che ti vibrava il vetro, ti girava anche lo specchietto retrovisore quando suonava ed era pulita la musica, erano separati tweeter, midrange, woofer, subwoofer, c'aveva tutto, amplificatore Alpine, cazzo, stereo Alpine. Sì, io dico ascolti bene, però l'alta fredda è un'altra cosa, già, quando parliamo di alta fredda si parla di altro, di risposta in frequenza, di direzionalità, di spazio sonoro, diciamo fronte sonoro, ci sono troppi fattori, diciamo uno che si accontenta va più che bene, niente da dire, però se tu devi ascoltare la vera alta fredda ti devi sedere nella poltrona, devi mettere tutte le cose che come devono essere messe, le casse orientate in un certo modo, eccetera, eccetera, per avere la resa, diciamo avvicinabile alla realtà di chi ha emesso, di chi ha fatto quella canzone lì, o chi, cioè devi sentirla tu la persona, non dico di vederla, devi sentire, in macchina non riesci mai a fare perché ci sono troppi fattori che ti modificano la spazialità, diciamo tu c'hai il tweeter magari te li metti vicino a da una parte, il basso vabbè non è direzionale lo puoi mettere dove vuoi, il medio magari ti sovrasta gli acuti o viceversa, c'è troppe cose da regolare, cioè per fare delle cose avvicinabili, non dico simili, avvicinabili all'alta fedeltà, non si fa così, ci vorrebbe delle strumentazioni e delle troppi lavori, alla fine ci costerebbero decine e decine di migliaia di euro per avvicinate e poi non ne sarei neanche massimo mai soddisfatto di come uno che è abituato ad ascoltare. Vabbè, credimi che io non sono uno di quelli che si accontenta e non mi piace sentire la musica matraca, come dico io, che si sente male. Io avevo tutti i suoni separati, la musica si sentiva benissimo in macchina mia, tutti mi dicevano attacca impianto, che dice ma quanto hai speso? E gli ho speso 500 euro, 600 euro e gli ho speso di soli in impianti, anche 1200 euro ho speso, quindi immaginati dell'altro ho speso 1200 euro per fare l'impianto. Poi traccassi tutto quanto, poi mi si è scoppiato il subwoofer, l'ho riportato e ho detto non è che tu hai messo qualche cava da pesca e l'hai bucato tutto, no, l'ha aperta la cassa e avevo ragione io, me l'hai ciabbato. Sì, no Gianni, allora io non sto disprezzando niente, perché io sono il primo che a macchina sta ascoltando con due altoparlantini, anche se c'hai Twitter, la multipla c'ha l'impianto a due vie, chiamiamolo, io, diciamo in questo caso neanche perché gli altri hanno anche il Twitter davanti, sotto però non sono la posizione sicuramente ideale per ascoltare gli acuti devono essere indirizzati vicino all'orecchio, perché sono molto direzionati quelle frequenze lì, però ti ripeto, una cosa è ascoltare buona musica, un'altra cosa è ascoltare l'alta frequenza. Sono due cose completamente diverse, in macchina ti posso garantire è molto ma molto ma molto difficile raggiungerla l'alta fedeltà. Ascoltare buona musica ce ne sono tanti, ho detto soltanto questa BMW con un impianto Macintosh con un sacco di funzioni particolari eccetera eccetera, però devi fare impianti che costerebbero troppo per cercare di avvicinarti e poi alla fine non ci sei arrivato, ma comunemente rispetto a un impianto domestico con gli altoparlanti di qualità, di elettorali, spendendo molto di meno, cioè ascoltare la musica in macchina costa molto di più che ascoltarla a casa, come a parità di qualità. Sai qua che ti potrebbe rispondere Fabrizio, perché ci aveva l'hobby di fare queste cose, cambiava i pannelli, li faceva lui, faceva più bombati, metteva a casse che voleva lui, eccetera. Lui ti potrebbe rispondere, preparava le macchine per le gare, Fabrizio, tu lo conosci benissimo, Fabrizio, chiedi a lui. Certo, infatti io non ho aggiunto altro, Fabrizio è un giudice di gara, però se ci fosse stato Fabrizio, se l'ascolto, Mario, se vuoi entrare ci dà conferma di quello che ti sto dicendo. E Fabrizio aveva, basta dire che c'era una Camici, costava all'epoca 9 milioni, solo l'autoradio, stiamo parlando degli anni 80, un autoradio, poi non parliamo di tutto quello che c'aveva dietro, non lo cercavo quando aveva la Vectra Fabrizio, però è sempre un compromesso già, non riesce ad arrivare alla qualità. Io che sono appassionato tutto quanto, io ancora non sono riuscito a sentire il suono che dico io, ancora non l'ho sentito, e ne ho ascoltato di tutti i prezzi, di impianti, di tutte le cose, non sono riuscito a trovare l'impianto che io posso dire, questo è l'impianto definitivo. E se tu vieni a casa mia un giorno che capita, io ti faccio sentire l'impianto mio, tutti quelli che l'hanno ascoltato rimangono, cosa ti posso dire, a bocca aperta, se mai sentito una cosa del genere, quando senti il basso che te ne butta in terra la cassa, ma non un basso distorto, un basso che ti fa vibrare le budelle, i Twitter che non sovrappongono sul basso, i medi che sono naturali, che ascolti la voce. Io ne sento tanti difetti nell'impianto mio, ma tanti, e chiunque l'ascolta dice cacchio, non ho mai sentito niente del genere. Eppure difetti un occhio abituato, un orecchio se ne accorge tanto. Quando tu devi ascoltare la voce umana, l'effetto più grande è trovare la voce umana, chiediamo anche a conferma Fabio, e diciamo quel transistor è molto ma molto difficile arrivarci, con quegli apparecchietti che abbiamo parlato prima ci si arriva un pochettino, però se vuoi ascoltare la voce deve andare sulle valvole, e poi ci vogliono altoparlanti che ci abbiano delle tensioni particolari, ed è molto difficile anche, figurati in macchina. No, ho già, ma tu ti puoi immaginare che stai facendo un impianto audio in una scatola di vetro, cioè tutti questi vetri in macchina non li puoi togliere, capito? E quei vetri sono la distruzione di qualsiasi fonte sonora che c'è lì dentro. Te lo dice uno che nell'altra macchina che avevo, quella prima di questa Audi, avevo un'altra Audi che era più modificabile, e lì ne ho fatto. Io ho speso 500 euro solo di fili, capito? Di fili, lascia perdere quello che c'era dentro, 500 euro di fili. Si può immaginare un attimino quanto mi sono appentato per fare l'impianto, però ero già sicuro che non sarebbe uscito quello che dico io, perché in macchina ci sono due vetri di lato da una parte, due vetri di lato dall'altra, un vetro davanti e un vetro dietro, con i vetri non ne esci. Lo so, infatti a me il vetro mi vibrava anche quando suonava l'impianto. Vedevo il vetro che vibrava, lo specchietto che vibrava, lo specchietto interno si girava addirittura. Il discorso è che, per esempio, le frequenze basse. Le frequenze basse tu riesci ad ascoltarle quando stai camminando. Le frequenze basse tu le perdi nel momento in cui accendi il motore, per darti l'idea. Perciò non le puoi avere, non ce le hai, punto. È inutile prendere, per esempio, io avevo, nell'altra macchina avevo un subwoofer che si chiama 1024. Se tu metti in fila i numeri 1, 0, 2, 4, quella è la sua potenza di picco, cioè potenza di picco 1024 watt, anche se viene da solo 200 rms. Quel sub era uno spettacolo con la macchina ferma, con molto rispetto, per quanto poteva tenere la batteria, gli amplificatori, insomma, per 5-10 minuti a volume medio-basso, spettacolare, perché veramente iniziava a sentire 40 Hz, i 30 Hz, capito, te li toglieva fuori, al limite è udibile. Nel momento in cui però tu ti siedi in macchina e metti in moto, non la senti più la musica, è finito. Lo so. Vabbè, comunque ci sono modi di ascoltare musica, ci sono la matracca, quella che dico io, che va bram bram bram bram bram bram quando suona, e la musica pulita. Io ascolto musica pulita in macchina. Gamma, cioè 1024 watt a cosa servono? Se io a casa con 8 watt RMS mi muovo gli altoparlanti con una dinamica, cioè non fa spiegarsela, capito? Perché le autoradio base hanno 21,7 watt per canale su 4 canali. Nonostante tutta questa potenza a disposizione, nonostante la tecnologia, i tweet dell'acero liquido, i crossover che perdono poco, un po' hanno migliorato le macchine con tutti i rivestimenti, qualche macchina addirittura ha una buona posizione del tweeter, è un medio basso che magari riesce anche a uscire un pochino. Però comunque siamo sempre lì, cioè non se ne esce, in macchina non se ne esce, non c'è niente da fare, fanno le gare, fanno un sacco di cose. Io ho avuto un Fiorino, un Fiat Fiorino, con una Majestic, una bicicletta per Alpine e due casse poste ai lati, che suonava da gara, capito? Da gara, che si metteva in tasca, per esempio, tutti quegli impianti Bose che mettono nelle auto, che ti fanno pagare 3.500 come 3.500 euro come optional. Però siamo sempre dentro una scatola con dei vetri, perciò per quanto puoi essere bravo, forte, tanaroso, visto che ti viaggi, da lì io per esempio in movimento non sono mai riuscito a ascoltare musica classica, non ci riesco, in macchina non ci riesco, è più forte di me. Mi ha detto bene, infatti se vuoi ascoltare tutte le frequenze devi ascoltare un'orchestra, dai 40 Hz in su, se riesci ad ascoltare anche 40 Hz diciamo, e ti rendi conto cosa vuol dire ascoltare musica classica, cioè la musica, quando metti la musica classica ti rendi tutte le carenze dell'impianto, non riesci ad avere neutralità di suoni, sovrapposizione di strumenti, cioè vedi un flauto che ti sovrapposta il tamburo, cioè è molto difficile già, una cosa che ci studiano le case costruttrici, cercano molte volte anche di curare l'acustica, però sono sempre dei compromessi perché dicono progettami un altoparlante per questo volume eccetera eccetera, è sempre un compromesso, non è dire l'ideale, che vuol dire io quando costruisco una casa so i parametri dell'altoparlante, sono quelli, devo fare un accordo, perché quelle che ho io sono bass reflex, un accordo di tali dimensioni, il volume eccetera eccetera, so quanto deve essere il volume della casa, prendo e vado e io ti faccio sentire se dovesse capitare casa mia, che non è niente perché ci sono impianti 10 volte migliori del mio, un impianto normalissimo il mio, calcolato diciamo per quelle dimensioni della casa, con quel componente ad altissima sensibilità, supera i 100 dB di sensibilità, e io te lo faccio sentire e sfido, no? Dico, qualunque impianto, di qualunque tipo, che riesci ad arrivare a quel suono che ti dico io. Di impianti auto parliamo, scusa. Eh sì, capo, in macchina viene male, c'è poco da fare. Adesso in questa macchina che ho, che non volevo fare modifiche, però non riuscivo a ascoltare la musica all'inizio, quando ce l'avevo una palla sullo stomaco, prendevo, smanettavo gli acuti perché non brillavano, mi schiacciavo i medi, a volte non riuscivo neanche i bassi, allora lo rimettevo in piazzo, sono rimasto ore e ore e ore, tornando al lavoro a casa, sotto casa, a provare a fare tarattura, a cambiare i dischi, a tirare la molla, non ci riuscivo. Poi alla fine ho trovato la quadra con una modifica spendendo 15 euro, niente da dire, cioè la posizione dell'altoparlante è fondamentale in macchina, capito? E c'è qualcuno che è ancora convinto che ti mette il tweeter davanti al vetro sfruttando la riflessione del parabrezza per riuscire a farti arrivare agli acuti. Cioè ci sono scuole di pensiero talmente diverse che capisci che alla fine, cioè, non ha ragione né uno né l'altro, o hanno ragione tutti, è un impasto. Sì, hai detto bene, è un impatto come non detto, sta dicendo le stesse opinioni, le stesse idee di quello che ti dico, ma io non ho inventato niente, è sempre un compromesso, addirittura io a casa mia, e mi accorgo, gli ambienti, quando vai in certe case sono ambienti riflettenti, assorbenti, infatti a me mi manca, devo metterlo, quando ho cambiato diciamo mobilia, il tappeto interno, il tappeto sembra una fesseria, l'impianto bassi reflex cambia totalmente il suono, completamente, dice, per dire, mettendo solo un tappeto in terra, per dire, quando uno c'ha, inizia avere qua. Poi se curi anche il retto, qua c'è gente proprio maniaci di queste cose qua e fanno delle cose allucinanti, per cosa sto dicendo, in macchina è pressoché impossibile, a meno che non ti costruisci una cosa, una camera anecoica con tutti i cosi, i sistemi di cose, ma non puoi farla camminare una macchina così, devi costruirti una scatola di quelle dimensioni, anche una sfera ancora meglio più che una scatola, forse, ma non esiste nella realtà una cosa del... Ascolta, mai conosci per caso tale Bajlak, Marco Bajlak? Sì, io lo conosco. Gli avevo fatto un impianto su un Audi tanti anni fa, magari ti l'hai anche visto. C'ha il Cirucchi adesso, sono clienti nostri, lui e il babbo. Gappa, sull'audio avevo messo, mi sembra addirittura sia amplificatore, impianto Alpine, caricatore posteriore, su woofer piatti Fortex, vediamo se mi ricordo qualcosa. Pensa che per terra di impianto, perché quello ragazzo già aveva un orecchio superiore al mio, non c'è dubbio. Per terra di impianto ho dovuto chiamare l'Alpine, mi sono fatto spedire il computerino dell'Alpine per fargli la taratura, una figura di merda. Lo so, diciamo c'è gente che spende i soldi, io quelli piatti che ho fatto io non sicuramente erano molto economici, però nel piccolo qualità prezzo con componentistica dell'acciare e ciò vabbè, infatti c'è anche di radio, quelli li avevo messi come medio bassi che valgono ancora un sacco di soldi con gli altoparlanti lì, infatti se qualcuno li vuole costavano all'epoca 480.000 lire la coppia, stiamo parlando negli anni 90 ed era una cifra esorbitante, e se tu li guardi adesso sono ancora altoparlanti di altissima qualità. Peccato che la cella è fallita qua. Bisogna chiedere a Antonello di Fusaro quanto altoparlanti gli ho comprato. Secondo me gli ho comprato magazzini e magazzini di altoparlanti. Tutto acciare, io facevo tutto acciare, perché il rapporto qualità-prezzo era fenomenale. Poi c'era chi aveva orecchie più fine, chi per esempio voleva l'amplificatore Audition, non Audison, Audition, cioè roba da 3 milioni di lire, 4 milioni di lire, tanto vuoi pilotare giusto e chiudere davanti, cioè cose così. Però siamo sempre lì, cioè ne ho visto gente smenarsi, sbattersi la testa, ho visto gente farmi complimenti come se avessi fatto chissà che cosa, e io sì, però stavo facendo il naso. Non ce n'è, poi il campo dell'audio, le wifi, macchina, gente che mette altoparlanti fuori, ce n'è uno ad oggi, quando fa gli impianti ti mette gli altoparlanti che ti escono dallo sportello. Se quando chiudi lo sportello non sei attento, il cono del kit ti spacca il ginocchio, va? Io ho partecipato a tante gare, ma normalmente sono quelle gare SPL a chi fa più rumore, la massima intensità sonora, ma non è qualità. Vedi questi altoparlanti, questi bassi che ti spaccano anche il parabretta, talmente sono pochi. Io ho visto parabretta spaccarsi, oscillare il parabretta, cioè arrivare al punto di frantumarsi, impianti da 10.000 watt dentro la macchina, cose da paura, però e che cosa è quello? È solo rumore. Fanno la gara a chi fa più rumore, e boh, qualità. Poi ci sono anche le gare qualità, ma come hai detto tu non si arriva mai alla vera alta fedeltà, diciamo sì, si avvicina, però neanche a parlare di vera alta fedeltà, stiamo parlando di cose diverse. Io, se mi presento in casa, io ho la possibilità di equalizzare, di fare tutto quello che voglio, perché ho delle apparecchiature che mi permettono con generatori di rumore rosa di equalizzare, però tu sei qui a casa mia, tu ascolto natural, cioè l'amplificatore della Yamaha, natural sound, vero, senza nessuna correzione, pulito e basta. Poi potrei migliorarlo con l'equalizzatore eccetera, c'ha tutto, analizzato gli spettri, posso fare tutto quello che voglio con il generatore, però non lo voglio, io lo voglio fare fisso utilizzando gli strumenti, nel senso lavorando sui crossover eccetera, perché mi sono accorto che non è ancora il mio ideale. Ragazzi, io vi lascio, faccio un giro poi da 10 e vi do una buona carezza per tutti a tutti e ci vediamo domani. Ciao Riccardo da parte di Giovanni, ciao, un abbraccio. Ciao Giovanni. Abbiamo utilizzato, ciao Riccardo, ci sentiamo, buonanotte. Guarda, si dice così in gergo, quando ti fai un giro fuori dal canale, ti fai un giro di manopola. Guarda, però ti sentiamo presto, è sempre un piacere sentirti. È un piacere anche vederti, perché quando si farà questa pianeta riunione sarebbe bello avere anche la mascotte del gruppo. Roberto, fa girare. Saluto a Riccardino, dai, tanto penso che domani venga il babbo, magari se c'è lui ci salutiamo di persona, dai, buon tutto, come ha detto lui, una bella salfata, mi devo scusare pubblicamente, diciamo, questi argomenti sono argomenti che a me piacciono tantissimo, probabilmente a qualcuno sembreranno noiosi, non lo so, mi addentro troppo e faccio passaggi troppo lunghi, come quando si parla di altri argomenti che mi interessano, mi devo scusare pubblicamente, dai, e avanti Gianni, scusa se magari abbiamo troppo monopolizzato. Sì, no. A me fa piacere, mi piacciono questi argomenti, li ascolto perché ho la passione anch'io della musica, per me la musica quando mi voglio rilassare, che cose mi mettono musica tipo gli America, roba del genere. e mi fanno stare bene, dai, mi straio nel divano e me l'ascolto tranquillamente, se no se voglio magari tenermi sveglio metto gli ACDC eccetera eccetera e ascolto tutti i tipi di musica. Sì, e non fa mai male, soprattutto la vecchia musica, che erano i maestri, diciamo, i gruppi sempre più belli. Adesso quando ascolto la musica mi metto le mani in testa, dico, ma dove siamo arrivati? Cacchio, basta vedere quel cacchio di rapper che c'era a Sanremo quest'anno, io dico, ma dove cavolo siamo arrivati? Io ho fatto una femmina degli anni 80, me l'ascolto in macchina, roba, dove ci sono gli ACDC, a lui. Allucinante, ma troppo bello quella musica, mi faceva correre da giovane, dico la verità. Ma quella è la storia della musica, non ho fatto la storia della musica. Infatti quando vedo questi qui, a dove cacchio ti sei ispirato? Basta dicono parolacce, rutti e cose varie, la gente, cacchio, i ragazzini diventano scemi. Poi quando li faccio, mia figlia per dire che ha 18 anni, adesso sta iniziando anche lei a ascoltare qualcosina, non dico di qualità, ma diciamo vicina a qualcosa di qualità. Bene, ma te come ti ascolta? Ah, mi piace, lo sento. Ah, non vedi che ti lasci ascoltare anche tu, non questi, queste cagate che ci sono in giro adesso. Anche mio figlio ascolta i Queen da quando ha visto il film di Queen, ascolta i Queen, si è fissato con i Queen adesso e si rimette sempre. Poi musica anni 80, l'ho sentito al computer ascoltandosi musica degli anni 80, gli ho preso anche un bel impianto per il computer, è un impianto che suona bene, dai. C'è il subwoofer, c'è tutto quanto, l'amplificatore, e se lo ascolta col computer, però fa un bel casino, vibra tutto. Sì, vabbè, da si diverte, piano piano poi scopriranno anche loro le qualità musicali, diciamo, degli interpreti.